Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ad inchiodarli le immagini di alcune telecamere di sorveglianza. Tobias e Nyan, 20 e 18 anni, due turisti altoatesini in vacanza a Krabi nel sud della Thailandia, sono stati immortalati mentre ubriachi strappavano diverse bandiere thailandesi e le gettavano a terra. L'identificazione e l'arresto per vilipendio alla bandiera proprio grazie a questi video diffusi da un thailandese sul web che in poco tempo sono diventati virali raccogliendo oltre 700.000 visualizzazioni e molteplici commenti negativi. Tobias Gamper e Jan Gersgrasser di Naturno in provincia di Bolzano sono stati arrestati e ora rischiano fino a 2 anni di carcere. Hanno ammesso di essere loro nei video ma di non ricordare nulla della bravata. Compariranno già nelle prossime ore davanti a un giudice militare di Surat Thani. L'ambasciata italiana a Bangkok sta seguendo il caso con la massima attenzione, in costante contatto con le famiglie. A favore dei due ragazzi potrebbe giocare il fatto che si sono già scusati e profusamente in un secondo video diffuso da un poliziotto di Krabi sul suo profilo Facebook. We are really sorry about that. We didn't know the law. We are from another country. Another country. The flag isn't so much important. Si fa presto a dire vorrei vedere voi di fronte alla prospettiva di farvi almeno 2 anni in un carcere thailandese, se in quella stazione di polizia con i poliziotti alle spalle che quasi sorridono, che vi sottopongo con la sorta di indubbia gogna mediatica, chiamiamola così. C'è un poliziotto con lo smartphone e voi lì in ginocchio a mani giunte che chiedete perdono per aver oltraggiato la bandiera. L'oltraggio alla bandiera è un reato anche nel nostro paese, probabilmente se lo fate in un locale italiano non vi mettono con le mani giunte di fronte a uno smartphone a chiedere scusa, ma vi fanno e notificano un'accusa per vilipendio alla bandiera. Mi sembra, non so se il reato ancora esista o sia stato in qualche maniera derubricato, però comunque l'oltraggio alla bandiera non può essere fatto nemmeno in Italia, perché questi due ragazzi hanno un po' alzato il gomito, erano andati in Thailandia e hanno pensato di attaccarsi alle bandiere thailandesi. Fatte la pesca, perché quando un ubriaco capisce poco, raziocina poco. Non vorrei fermarmi tanto sull'episodio dei due ragazzi thailandesi, ma quei due ragazzi vanno in Thailandia, c'è un nesso col fatto che in realtà ci vanno molti italiani in Thailandia. Sono posti fantastici, bellissimi, il sud-est asiatico attira moltissimo per le sue bellezze naturali, per il fascino del luogo esotico, per l'immenso patrimonio culturale, architettonico e artistico, e quindi ogni anno, le statistiche che ho sono del 2015, quasi 250.000 italiani se ne vanno in Thailandia. Beh, io vorrei capire, al di là dei due ragazzi, la loro storia spero che abbia un lieto esito, tornino a casa con una lavata di capo, alla fine poi non hanno fatto nulla di estremamente grave, un gesto brutto, ma non è che hanno ammazzato nessuno, hanno rubato nulla, torneranno a casa e ci penseranno 100.000 volte prima di prendersela con le bandiere dei paesi ospitanti. Detto questo però vorrei capire invece da chi mi ascolta cosa vanno a fare gli italiani in Thailandia. La mia non è una domanda maliziosa, capziosa. Non sono nato sotto un cavolfiore, so benissimo che la Thailandia è anche meta di viaggi organizzati e condotti anche singolarmente, di orde, di umarelle che coronano quello che è il sogno bufantoziano, la trasgressione. Andare in luoghi dove ci sono frotte, selve, masse enormi di ragazzine disposte a concedersi per pochi soldi. Si sentono i grandi amatori, sentono dei superuomini, sentono in grado di fare qualunque cosa. Ho visto un servizio delle Iene che con una telecamera nascosta sono andati in Thailandia al seguito di alcuni signori italiani, ometti medi, normali, come siamo tutti noi, un po' grassocci, un po' dimessi, un po' stempiati, tutti con famiglie, tutti con le mogli che sanno, ma in fondo tirano un sospiro di sollievo, signora mia, sa mio marito, ancora c'ha quelle esigenze, ma come fa, io sono tanto stanca, e li mandano in Thailandia. In Thailandia si comportano come animali nei confronti di queste ragazzine, che sì, stanno lì per quello, è vero, ma giocano sulla miseria, su il bisogno che hanno queste persone, e saltellano come dei calabroni di fiore in fiore, ogni sera escono, si prendono 3-4 ragazzine, le prendono, le scelgono, le sbattono, le lasciano e via dicendo. Questo è, nella sua definizione tecnica, turismo sessuale, la definizione accomodante dei circoli tra uomini. Ma te ne vado in Thailandia, c'è un sacco di figa, vai che è un bel posto. 800 24 00 24, tra un po' parleremo degli italiani che vanno in Thailandia. Melog, cronache meridiane. Quando poi scopri che anche il mare è sporco e la spiaggia è brutta, capisci perché è famosa solo per il turismo sessuale. In effetti fa impressione la quantità di maschi occidentali accompagnati da ragazzine thailandesi. Ma eccoci arrivati in albergo, un succo d'ananas per rinfrescarci, e cerchiamo subito di farci dire qualcosa dal nostro amico Fritz. Perché tanti anni che vieni qua? Sì, io ho preso 5 anni, giusto gli anni vengo, sono morto 2 volte. Sei in pensione? No, io ho ancora una ditta. E sei sposato? No. Adesso sei separato? Sì, ci sono con un'amica filippina, anzi, domenica quando sono andato a ritirare il biglietto lì a Comune, dico, ma dove vai? Quando mi sono in Thailandia. Questo è il servizio di Giulio Golia delle Iene, qualche anno fa, che andò in Thailandia al seguito di un gruppo di italiani, e questi gli spiegavano le loro transumanze, andavano nei locali dove ti fanno un massaggio con la schiuma. Cioè, ti ricoprono tutto di schiuma, poi ti si strusciano tutte addosso, una cosa fantastica. In altri posti facciano i massaggi con il ghiaccio, cioè ti mettono praticamente le parti intime sotto ghiaccio, dice, però ti diventano durissime, dice, si rimpiccioliscono ma diventano durissime. Ma è rimasta, io l'ho visto questo servizio al tempo, è rimasto impresso in quelle che nella loro mentalità basso, crasso, baristico, impiegatizia, è il colmo, la summa della delizia e l'artificio sensuale. E poi andavano semplicemente, andavano in questi bar dove c'erano ragazzi che facevano parte, diciamo, del personale del bar, che li adescavano, loro se le potranno scegliere, potranno addirittura scegliere uomini sui 50 anni, ragazzine sicuramente sotto i 20 anni, che potevano scegliere, dicendo, ma questa me la prendo, gli do l'equivalente di 20 euro, sì, ma me la porto un attimo in albergo, in fondo per lei è sempre meglio che dormire sul pavimento della sua baracca, venire in albergo con me, alla fine che ti importa? Dice, no, ma se vai a cena vacci da solo con gli amici, te le porti anche a cena, poi devi anche dargli da mangiare, poi ti tirano sul prezzo, poi dopo con te a letto ci vengono controvoglia. Ecco, questa era la considerazione che avevano delle locali thailandesi questi signori. Non voglio fare il moralista, voglio soltanto capire. Matteo, buongiorno. Buongiorno Gianluca. La sto ascoltando. Però spenga il viva voce, tutto quello che c'ha, sento un ritorno metallico. Sento davvero molto male anch'io in realtà. Parli. Sento tutto. Allora, io ho avuto la fortuna di vivere in Asia per un anno, e per i giovani l'Asia viene vista un po' come il luogo prediletto per lo spaccio, per la droga, per lo svago. I giovani, europei che vanno come turisti? Sì, sì. Si cerca tipo i full moon party. Occidentali, in generale. Sono delle feste dove è noto poter andare fuori con qualsiasi droga possibile. Ma l'Asia in generale è molto pericolosa, soprattutto per le droghe. Io ad esempio mi sono imbattuto in un ragazzo in Thailandia, a Bangkok, dopo aver acquistato della marijuana, è stato venduto dallo spacciatore alla polizia, gli hanno sequestrato i documenti e gli hanno chiesto entro il giorno dopo l'equivalente di 3.000 euro, e se non si fosse presentato dalla polizia il giorno successivo con quei soldi, gli avrebbero ritirato tutti i documenti e gli avrebbero impedito di tornare a casa. Quindi Matteo, ai due ragazzi tutto sommato sta andando bene, che sono diventati personaggi pubblici, tutti li hanno visti, alla fine rischiano molto meno di quello che rischiano persone che entrano in queste maglie limacciose in cui ci sono rapporti sicuramente borderline fra spacciatori, malavita organizzata, polizia e via dicendo. Guardi, non vorrei infilarmi in quella situazione, ma guardi, non vorrei davvero finire nelle maglie della giustizia di quelle zone, ecco. Sì, ma ormai, essendo tutto sommato la rete, è stata per loro una gogna, perché li hanno anche presi in giro, insultati, però tutti abbiamo visto le loro facce, non possono scomparire quei ragazzi, si sono mosse le autorità, si è mosso il consolato, alla fine torneranno a casa, nella migliore delle ipotesi torneranno a casa pagando una sanzione, ecco. Ci sono situazioni molto più rischiose però, che possono accadere, altro che strappare bandiere. Se si finisce, in un giro perverso tra spacciatori e polizia, può andare molto peggio. Sì, Sì, guardi, questo ragazzo quando l'ho visto, l'ho beccato per caso in un negozio, stavo facendo colazione. Ma era italiano questo ragazzo? Era italiano, tremava come un bambino e stava facendo il giro di telefonate tra tutti gli amici per raccimolare soldi, perché entro le 10 di mattina doveva presentarsi dalla polizia per pagare la sua parte. E davvero, cioè, questo qua, questo ragazzo mi ha detto: ah, non comprate droga, è pericolosissimo. Di dove era questo ragazzo? Si ricorda che città? Onestamente non l'ho chiesto, era talmente spaventato che semplicemente abbiamo cercato di dargli conforto. E quanto doveva mettere insieme? 5.000 euro? No, allora, era in BAT, però era l'equivalente circa di 3.000 euro, per quel che mi ricordo. E in generale quello che mi viene da dire ai giovani è: non andate in Asia a comprare droga, perché io sono stato anche in Cina e in Cina capitava di avere degli amici che la compravano, ma in Cina si rischia tantissimo per uno spinello, cioè è davvero la cosa più stupida che si possa fare. Nemmeno in Italia sono dovrebbe comprarla, che anche lì è un reato, però si rischia molto meno, ecco, andare lì pensando che è il paradiso della roba e del fumo, però si sa che si rischia. Questo ragazzo ha passato un brutto momento. Grazie Matteo. Patrizia, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io volevo dire questa cosa. L'anno scorso sono capitata per una scelta legata più che altro al prezzo molto basso in Thailandia, perché sapevo che c'era un mio collega, io facevo tassista. Con chi è andata lei? Lei con chi è andata? Con mia figlia. Cioè due ragazze in Thailandia. Perché mia figlia abita in Germania, quindi mi ha detto: voglio andare in un posto dove c'è caldo, e quello era quello che costava di meno. Giustamente. Mi sono trovata con altri quattro colleghi, e questo mio amico, che è un mio collega, che però era andato in Thailandia anche per fare un giro di tutto il nord della Thailandia, mi ha spiegato che c'è questa strana usanza adesso. Mentre prima le thailandesi tendevano a farsi sposare, a venire in Italia, adesso non si vogliono più far sposare e diventano le fidanzate degli italiani, dei tedeschi, per quel periodo di vacanza. Non è tanto vecchia, diciamo che gran parte dell'economia cubana si è basata su tanti operai che andavano a Cuba e sentivano improvvisamente Paperon de Paperoni, tornavano, c'era una fidanzata cubana. Sì, ma io poi ho conosciuto un signore, non voglio dire che lavoro fa, che mi ha fatto vedere la fotografia della sua fidanzata. Ma il lavoro me lo dica, che mi interessa, è antropologicamente interessante. Tanto non è che da un barista, vabbè, sono una tassista, quindi che male c'è. Alcuni punti della città dove mi fermo per prendere un caffè, perché poi facendo un turno seminotturno ho bisogno anche di stare sveglia. E questo mi ha fatto vedere la foto di questa sua fidanzata e io ho detto: ma vabbè, continuiamo a pensarla e a credere questa cosa. E devo dire un'altra cosa poi, che evito accuratamente di salutare i colleghi che ho visto là, perché questo mio amico, che è un mio collega, mi ha raccontato delle cose ripugnanti. Vabbè, me ne racconti qualcuna, omettendo i particolari ripugnanti, faccia capire cosa andavano a fare. No, non lo voglio dire perché poi mi imbarazza moltissimo la cosa. Ma sì, le cose si possono dire attraverso metafore, si possono dire attraverso metafore, senza esplicitare nella crudezza. Andavano per avere, diciamo, avventure sessuali? Sì, e ce n'è uno in particolare che tutte le volte che lo trovo ai posteggi mi volto dall'altra parte, perché mi fa venire l'urto di vomito a vederlo. Ma cos'è la cosa che dà fastidio? Andando con ragazze molto giovani, ecco questo. Con ragazze molto giovani e poi con questo atteggiamento. Tu, uomo che c'hai soldi, perché poi fondamentalmente questo so che è uno che non ha famiglia, quindi... Sì, che c'hai soldi, l'equivalente che davano a queste ragazze, mi sembra, sono 500 baht, che per noi sono quattro spiccioli, si comprava una ragazza con quello che oggi lei ci prende il panino e la Coca-Cola al bar. Questo sì, però è un'altra cosa che mi ha veramente molto molto rattristato, ma a livello umano, è che ho trovato infatti non ci tornerò mai più, un paese, un popolo, almeno in quelle aree dove c'è il turismo, completamente snaturato e devastato dal turismo di massa. Cioè il turismo di massa sta distruggendo le persone ed è la cosa più brutta. Il turismo di massa già in sé è qualcosa che semina danni sul territorio, come le cavallette. Sì, però il turismo di massa ci aggiunge il turismo sessuale, distrugge anche la dignità, gli animi, l'assetto delle persone. Sì, infatti mi ha fatto una tristezza, tristezza per questa miseria, che da un lato è una miseria di tipo economico, perché molte persone poi sono vittime dell'idea che il capitalismo, i soldi ti danno la felicità, e dall'altra la miseria di queste persone che Che poi io non capisco voi uomini come siete fatti, vi bevete di quelle cose che non stanno né in cielo né in terra. Cioè, come fa una ragazzina di, diciamo, 18 anni, va? A dire, diciamo, un vecchietto di 70 anni, amore, tesoro. Cioè, a me è rivolta, non so. Ma che sarà una cosa vecchia come il mondo? Anche Bezzabea ha risvegliato Re Salomone dicendo le stesse cose. Sì, e gli uomini sono sempre beati delle fandonie, raccontare alle donne e farli sentire grandi. Sì, ma sai che io a volte porto sul taxi delle persone, le guardo dallo specchietto e mi dico, ma sei scemo o veramente ci credi a quello che ti sta dicendo? Sei alto 1,60 m, quella è alta 1,80 m, truccata, palestrata, che per meno di 600 euro non esce di casa, e va bene. Vabbè, ma nemmeno Alvaro Vitali si è mai domandato come mai la Fenech, nella pantomima della commedia italiana, fosse per lui merce appetibile. L'uomo sempre dico? A me dispiace per voi, francamente. Ma perché non ci commiseri? Noi siamo ben contenti, sì, di farci non so illudere. Che mi conviene, però non so, io forse perché... Anche noi uomini siamo bravissimi a farvi credere che siamo capaci di innamorarci di voi. Ah, sì, infatti voi ci credete quello pure. È quello che pago io, però ognuno ha la sua moneta di scambio. Sì, questo è vero, però non Beh, so, torniamo io... alla Thailandia, Patrizia, un bell'argomento. Se vuole andiamo nel treno e ne parliamo. Torniamo alla Thailandia, ci fermiamo solo un istante, abbiamo poi un viaggiatore privilegiato che è stato recentemente in Thailandia, non so se per turismo sessuale o per accrescere il proprio spessore culturale, ci racconterà dei lati inediti dell'italiano in Thailandia. A tra un istante. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan, Leonardo Manera e altri ospiti vi aspetta domenica 15 gennaio al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Dai, avanti, sei sotto al culo della thailandese. Questa mignottaio a cielo aperto. Ma che è pauroso? Insomma, sta prima sera a Phuket, come la vedi? È pure una bella USA, mamma mia ragazzi. Perché la russa? La russa. Questi sono due ragazzi romani, Futre Mandingo, che nel loro Mandingo, grazie, tutto relativo, chiaro, romano va in Thailandia e sente Mandingo. Futre Mandingo vanno in un locale in Thailandia e con il selfie stick si fanno le foto in mezzo alle ragazze per far morire di invidia agli amici. Qualche puntualizzazione che mi scrive SMS, mi dice, perché devi fare ste paternali, tutto il mondo va a Troia la notte dei tempi, la natura umana, non faccio paternali, sono delle curiosità. Mi piace sondare l'esperienza del pubblico, portare il pubblico a raccontare le loro esperienze di vita, facendo così facciamo cronaca, raccontiamo qualcosa che probabilmente non passa per le agenzie di stampa, è il racconto del tessuto sociale del nostro paese, dell'umanità del nostro paese. Come vedete, ogni volta è come se avessimo degli esperti, abbiamo persone che sono esperti della loro vita e abbiamo creato un canale per cui con facilità, con tranquillità e con serenità raccontano le loro storie. Un altro signore è molto indignato perché non ho sottolineato il fatto che quei due ragazzi hanno detto che in Italia nessuno protesta, nessuno presta importanza alla bandiera. Sinceramente spero che li tengano in Thailandia per un bel po' e gli venga negato il supporto dell'ambasciata, visto che non ne frega nulla la bandiera del proprio paese. Signore mio, ovviamente questi ragazzi a parte sono altoatesini e quindi già vivono in una terra che ha un valore molto relativo della bandiera, che per lei è un valore, ma detto questo, senza voler fare discriminazioni, nessuno insegna oggi ai ragazzi qual è il valore della bandiera. La bandiera racchiude in sé l'orgoglio di una nazione, la nazione per essere orgogliosa deve avere dei punti di orgoglio. Non può essere più la memoria dei morti, delle guerre, delle battaglie per il risorgimento, per l'unità d'Italia, come era quando eravamo piccoli noi. Bisogna trovare dei punti di valore comune per ridare ai ragazzi rispetto alla bandiera. Ma non credo che sia poi l'aspetto fondamentale di questa storia. Fondamentale è quello che ci dice Giulio. Buongiorno Giulio. Sì, buongiorno Nicola. Nicoletti. Allora, la mia testimonianza credo sia una fra le più comuni, diciamo. Però io ho questi due amici che a causa del loro aspetto fisico non sono molto presentabili, ecco, diciamola in questo modo. Sotto quindi, il limite dell'accettabilità fisica, diciamo. Bravissimo. Cioè, quindi, sono delle chiaviche umane, cosa c'hanno? Sono brutti? No, beh, allora uno è pieno di tatuaggi da cima a fondo. Vabbè, quello se l'hai fatti lui, è mica la natura. Mancione, nasone. Se l'hai fatti lui i tatuaggi, però. Esattamente. Si sente allora, figo. D'altro c'ha la pancia, il nasone, vabbè, che vuol dire? Sì, esatto, quindi questi vabbè, due... Questo... dal momento che durante l'anno non battono un chiodo con le ragazze, diciamo... Sono un po' sfigati, quello è una condizione dello spirito, indipendentemente dallo stato fisico. Esattamente. E quindi per loro, diciamo, è diventato un rituale da alcuni anni partire prima di Natale e farci questi 20 giorni in Thailandia, durante i quali non escono mai dall'albergo, cibo, alcol e sesso. La chiusa, fanno una chiusa a pagamento. Esatto, tant'è che pur alloggiando in riva all'oceano ritornano a casa ogni volta più col colorito più pallido di quando sono partiti. Prendi, ecco. Sono prosciugati quando tornano. Ecco. Devo fare una trasfusione di sangue. Sì, esattamente. E esattamente. Si vantano con gli amici di quello che hanno fatto? Sì. E certo, cosa dicono? Certo. Ah, sai che roba. Ah, sai che roba, devi vedere, poi non ti piace più questa, te ne fai mandare un'altra, il portiere ci spiega tutto, insomma... Allora, che poi... questo possa dare a loro un soddisfacimento fisico, non lo metto in dubbio, ma dal punto di vista dell'autostima, come fanno a sentirsi fighi con delle donne che devono pagare? Dov'è la figaggine? Basta pagare... Non c'è, secondo me non c'è, io non condivido, a parte che io comunque. Ma non è questione di moralismo, non è mai parte, sposate i figli, questo non la rende inattaccabile alle passioni, certo. Lo sa meglio di me. Però certo. Detto questo, io non voglio, non sindaco, che ci sono persone che hanno delle forti, diciamo, forti deficit a livello relazionale, non riescono a stabilire relazioni soddisfacenti e quindi devono pagare delle persone. Vale per le donne, in minima parte, qualcuno mi ha anche detto, se ci va una settantenna a cercare ragazzini non è la stessa cosa. Probabilmente è la stessa cosa. È ancora desiderio di relazione, di calore umano, non potendoselo più permettere per alcuni canoni che regolano i rapporti tra le persone, va a comprarsi i toy boy. Buon per lei. Però questo non gratifica da un punto di vista della relazione, questo che mi domando. Antonella da Brescia. Buongiorno. No, io volevo fare due riflessioni. La prima, che stato è quello della Thailandia che si comporta in questo modo per l'oltraggio alla bandiera e lascia che migliaia, milioni di corpi delle sue donne vengano trattati in questo modo da anni, è praticamente la massima fonte di economia di questo stato. Si è risposta da sola. Prima cosa. Seconda cosa, volevo dire che io conosco tanta gente che va in Thailandia e prevalenza sono uomini, sono ragazzi, ma anche famiglie. Saranno i costi che sono bassi, però sicuramente rendere, voglio dire, essere anche come dire, l'appoggio di questa economia che si basa sulla prostituzione. Ma scusa, ma le famiglie che ci vanno, non è che vanno, ma faranno un massaggino? Ma... Sì. Sì, comunque dietro questi massaggi c'è altro e io dico che... Quindi lei conosce famiglie, cioè... Che queste donne che fanno i massaggi così carine, così educate, così servizievoli, sono donne vendute a 13 anni dalle loro famiglie povere dei villaggi di campagna. Questo è chiaro. Io mi vergognerei. Cioè, bisogna anche conoscere lo strato sociale di questi luoghi, come si fa a fare il turismo in questo modo, ma a proporlo anche a livello di agenzie nei nostri paesi, è uno schifo. Ma l'agenzia non è che ti dice, è lì perché no, puoi andare... Per fare soldi c'è la tratta dell'essere umano, Ma vorrei sapere qualcosa di più rispetto alle famiglie che dice lei, perché ha detto famiglie, ci vanno famiglie intere? Ci sono anche, io conosco anche famiglie che vanno abbastanza con una certa regolarità, soprattutto nei periodi invernali. Vabbè, mica andranno a fare turismo sessuale. Buono, c'è il sole, eccetera. Ma le famiglie non andranno a fare turismo sessuale. Io trovo che comunque questi paesi che si sorreggono su questo tipo di economia che mette alla mercé il corpo delle donne in questo modo e gli uomini occidentali ricchi sostengono questa cosa. Adesso non voglio fare è una vergogna, però entriamo. Intanto do una notizia, sono stati scarcerati due giovani arrestati in Thailandia, gli sarà inflitta una pena pecuniaria. Stanno andando a Bangkok, la capitale, ritorneranno in Italia, hanno pagato un po' di soldi, la paura è passata, come avete visto, è servito però a parlare di questa vicenda. Giacomo Giubilini, buongiorno. Buongiorno, ciao, ciao. Giacomo Giubilino è uno scrittore, autore di Novantesimo Minuto, Storie, Manie e Nostalgie della costruzione dell'immaginario calcistico, edizione Minimum Fax. È appena tornato da un viaggio in Thailandia. Come mai lei, scrittore Giubilini, è andato in Thailandia sotto le feste di Natale? Allora, intanto non sono andato per turismo sessuale, però non lo posso provare. Mica l'ho mandato. Dovete fidarvi. Sono andato a fare trekking nel nord, sono andato a vedermi Bangkok, è la seconda volta che ci vado. E amo molto questo posto, amo molto la loro cultura. E, secondo me, ecco, quello che emerge dalle telefonate è un'immagine un po' falsata. Ecco, Giacomo, riportiamola. È tutto vero, non c'è nulla di... Però, come vedi, tu sei una persona che ama lo sport, ama l'attività fisica, ama il trekking, trovi delle fantastiche occasioni. Non voglio dire che le decine di migliaia di italiani ci vanno ogni anno, ci vanno per quello. Ma anche questi li avrai visti te, perché non è che... Sì, però sono figure tra il patetico e il languido, cioè li categorizzerei come pensionanti, cioè sono della gente languida, slabbrata, sfatta, bolsa... con balze di trippe, tronfi, insomma son dei disperati che io immagino le mogli di questi quanto dovrebbero essere felici di togliersi dalle scatole certi bonzi. Ma infatti sono le prime persone, sono le prime persone a averne dei vantaggi. Pensa esatto. Che averceli addosso forzatamente il sabato sera, una volta a settimana, quando va bene o quando va male, capito? Meglio se vanno in Thailandia, si fanno il pieno e tornano tranquilli. Un'opera di bene anche assolutamente. Senso, cioè doversi svegliare per anni con questi personaggi accanto e vederseli poi via da casa per 15 giorni è una liberazione, insomma. Quindi insomma non ci vedrei tutto questa tragedia, ci vedrei dei personaggi tristi, tragici, come siamo un po' noi italiani. Dovrebbero adesso, diciamo, fare modo... Giacomo, queste signore come Pina Fantozzi quando offrì due pippi alla signorina Silvani per alleviare gli ultimi giorni di Fantozzi che pensava di avere un male incurabile. Ma sì, insomma, mandateli in Thailandia, insomma, trovatevi poi voi un'alternativa a Roma, dove state. Fammi una tipologia, una classifica, vediamo se puoi definirli per tipi. Sì, guarda, una piccola tassonomia che ho fatto qua stando lì, cioè sicuramente il pensionante, che è questo personaggio... Il flaccidone. Che viene spostato dalle colazioni continentali alla sdraio da queste ragazze, che poi fondamentalmente sono delle badanti... E poi c'è il rapace occhiuto invece, l'italiano che in qualche modo si sente più furbo dei thailandesi, che proietta su di loro il ladro che è in lui e fondamentalmente vede ladri ovunque, quindi invece è lui che fondamentalmente li tratterebbe rubandogli cose o roba, e vede in tutto qualcosa che non va, tipo un conto con pesce da 3 euro, lui è capace di contestarlo. Ho visto scene ridicole, patetiche in questo senso. È come quelli che quando ti viene il poveretto che ti offre la borsetta tarocca o l'elefantino di legno, contratta, dice quanto è? 10 euro? No, te ne do 3, per te tanto sono già tanti. È uguale. E questa è la figura più patetica, perché il contrattatore, in Italia non si permetterebbe mai di farlo, e lì invece si sente legittimato a fare il rapace, cioè a prendersi tutto, a prendersi queste ragazze, a prendersi se può l'avorio, a cercare l'oppio e poi finire in situazioni ridicole, insomma finire fregato, mazzolato. Considerate, ecco, la telefonata di prima della signora non era veritiera, cioè la Thailandia sta esplodendo economicamente, Bangkok è una città meravigliosa, con uno sviluppo incredibile, quindi non parliamo di un paesotto, di un villaggio su una palafitta e di troglodita. Allora fermati un attimo, Giacomo, fermati un attimo, un secondo dare la linea, poi riprendo te, mi devi chiarire questo punto. L'italiano turista sessuale approfitta comunque di sacchi di disagio, di povertà in qualche maniera, o in realtà fa parte di un'economia, non avendo loro il senso di classificazione, è immorale, via dicendo, fa parte della loro economia, quindi alla fine non fa un danno a nessuno? Fermiamoci un secondo, intanto rifletti su questa domanda. Melog, Cronache Meridiane. Allora, vorrei dire che i thailandesi sono un popolo super pacifico, sono delle persone molto pacate, appunto, sempre anche credo per il fatto che sono buddisti o tanti sono animisti. Per cui è difficile che sentirete dei thailandesi che quando litigano alzano la voce, quindi sono un popolo molto calmo generalmente, sempre con il rispetto nei loro confronti. Loro tengono tantissimo alla figura del re e della regina, tanto che la domenica, generalmente è dopo pranzo, non mi ricordo proprio bene l'orario, si ferma tutta l'attività della città per un minuto, insomma per un minuto, per il tempo della durata dell'inno nazionale. C'è un momento infatti in cui a un certo punto, generalmente succede quando, almeno io mi sono trovata a Chatuchaka, il mercato di cui vi parlerò, il mercato domenicale, in cui tutti si bloccano, si paralizzano, che tu sembra che stanno facendo uno scherzo, dici dai, che succede? In realtà sono ferme perché c'è l'inno nazionale, quindi sarebbe carino che... Non è un flash mob, non è che giocano le belle statuine a livello nazionale, questi sono andati a stracciargli il tricolore, la bandiera, chiaro, questi si immobilizza il mondo per un istante, come quei giochi si facevano alle scuole elementari e quando c'è l'inno, qualunque cosa fai rimani immobile, proprio stai col cucchiaio a metà bocca, ti fermi, stai correndo, rimani in una plastica posa, stai attraversando la strada, ti fermi, stai saltando di rimanere a mezz'aria, tu vai a toccargli la bandiera in questo caso. Allora riprendiamo con Giacomo Giubilini, scrittore e autore di vari libri, che è stato recentemente in Thailandia, un suo punto di vista. Ecco, rispetto a domanda che ho fatto poco fa, Giacomo, sull'aspetto dello sfruttamento economico delle fasce sociali disagiate attraverso il turismo sessuale, come la vedi? Allora, io la vedo così, che noi italiani abbiamo questa capacità straordinaria di assolverci sempre, trasferendo in un altrove esotico e peccaminoso quello che di fatto succede a Via Salaria o a Roma Prati, e nel senso che sicuramente Parioli è un fatto che ormai le cronache hanno sufficientemente trattato. Voglio dire, c'è un famoso marito, non so se adesso non si vabbè può non citare. È soltanto lui, vabbè, dalla tutta la colpa, e non voglio assolverlo, ma di 300.000 sì, ma anch'io lo seri mia, professionisti perché... che l'hanno fatto, l'unico è il marito della Mussolini, gli altri dove erano? Sì. Sì, vabbè, l'abbiamo detto, vabbè, ma no, però abbiamo questa straordinaria capacità di trasferire altrove quello che ci succede sotto casa, no? Come se fossero paesi infernali e peccaminosi dove... Scusami, i massaggi thai a 5 euro li fanno in qualsiasi borgata romana. Cioè... Esatto, con anche l'happy ending, certo. Come dicono a Roma, insomma. Quindi, massaggio romantico, senso... il massaggio romantico, ma c'è la fila di vecchietti davanti. Esatto, quindi andiamoci un po' piano con quest'idea che ci sia questo gorgo infernale che attira l'italiano tra l'ebete e lo sfruttatore. In realtà poi l'italiano lì è quasi sempre uno sfruttatore e un rapace, appunto, ma è anche quasi sempre una figura patetica. Quello che gli esemplifica al meglio è l'italiano che è rimasto lì, cioè che si è incastrato lì, che è esangue, cioè io ho parlato con alcuni di loro, hanno attività commerciali anche buone, insomma, però li vedi che sono fanno? Esangue. Pizzerie, lui, cosa aprono? Pizzerie. Sì, pizzerie, il classico ristorante italiano con anche lì delle ingenuità, tipo, che ne so, la carne argentina in un posto dove tutti mangiano pesce, arriva l'italiano e pensa di aprire il ristorante con la bistecca australiana. Beh, tanto credo che non ha portato la polenta con le salsicce. Sì, sì. Forse il business degli altoatesini era quello. Sarebbe stato meglio. E lì capisci tutto il provincialismo, no? E infatti molti di questi chiudono. E alla fine, quando ci parli, vedi questi personaggi esangui, disillusi, spolpati, vittime di truffe incredibili, cioè che in realtà erano andati lì con l'idea, arrivo io, sono l'italiano, apro l'attività, questi non mi fregano. In realtà, in primo luogo ti fregano più degli italiani, ma in secondo luogo sono persone pacifiche ma anche brave, cioè si stanno svegliando molto. Cioè non è che dormono, ecco. Non è che dormono. Fermo un attimo, sentiamo due ascoltatori, poi commenti. Mario, buongiorno. Buongiorno, io volevo spezzare una lancia in favore della Thailandia, perché io ci sono stato 8 volte. Ci sono stato prima con quella che era la mia fidanzata e poi diventata mia moglie, poi sono stato con la prima figlia, la seconda e la terza figlia. Quindi porta le donne di famiglia a fare un giro in Thailandia sempre, questo sì, è una regola. Perché è un posto assolutamente normalissimo e io sono d'accordissimo col suo collega di prima, perché lui dice, cioè, minimizzava un po' questo aspetto del turismo sessuale. Sicuramente minimizziamo, che ci sia, non vogliamo nemmeno far finta che non ci sia, c'è ma... No, c'è, sicuramente c'è, ma te lo devi andare a cercare, cioè voglio dire, non è che dovunque tu trovi bordelli, casini. Ma è come chi va sulla via Salaria dopo le 10 di sera, non è che va a fare una passeggiata. Vai su internet, vai in Corso Buenos Aires a Milano, è pieno di quelle robe lì, come non so, in Sud America, in Brasile, ovunque. E il posto invece è meraviglioso, perché è un posto dove tu hai delle bellezze naturali eccezionali. La gente, come diceva la signora prima, è squisita perché hanno una cultura buddista e sono gentilissimi. Tutto ciò che fai costa la metà rispetto a quello che paghi da noi. Quindi l'albergo che da noi costa 400 euro, lì costa 200. Hai degli ottimi alberghi a 50 euro dove stai benissimo e sei trattato benissimo e mangi benissimo. È un posto magnifico. Io ti dico, ho provato a fare un mese intero con tutta la famiglia, io, mia moglie, figli, amici, su un bungalow, su una spiaggia, siamo stati... È stato da Dio. Sentiamo Claudio. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Io vi do la mia esperienza tra Thailandia, Cambogia, Indonesia, Malesia e anche Kenya, che non è Asia, ma dove ci sono anche tante, ma tante italiane, barra europee, barra asiatiche, che allo stesso modo dei maschietti fanno del bel turismo sessuale. Vanno a cercare il Big Bamboo, ci abbiamo fatto una trasmissione. Allora, però questa cosa, insomma, andrebbe, insomma, ci ho fatto... maschi italiani, europei e americani e asiatici saranno anche dei porci che sfruttano la gente del posto, ma le donne, sottolineo, donne italiane, europee, e fanno lo stesso, ma non si dice. E si vede che gli uomini italiani non gli danno più quello che cercano. Scusi. Si vede che l'informazione non piace molto parlare anche del turismo sessuale femminile. Ma come ci ho fatto una puntata? Guardi, io sì. Turismo sessuale maschile. Ma ci ho fatto una puntata, scusi, ma non ci trovo nulla di strano e singolare né detestabile, ma in entrambi i casi l'abbiamo fatto una puntata sulle donne che vanno a cercare degli uomini come oggetti sessuali, se li pagano. Qual è il problema? È altro. Ma che devi bilanciare, sono cattive anche le donne. Quando ha detto questo, che risolve? No, volevo dire anche le donne, però lo fanno. Sì, lo fanno. Perché lo fanno, ma non si dice molto meno. Ma come non si dice? Si dice, è scritto dappertutto. Vabbè, ha avuto la sua soddisfazione. Giacomo Giubilini, questo signore vuole ribilanciare il fatto che anche le donne pagano per avere sesso. È morto. Ma guarda, visto gli uomini italiani che ho visto lì, che è giusto che insomma si diano da fare in altri modi, nel senso che bisogna stare anche molto attenti a semplificare, nel senso che è una cultura complessa e variegata, no? Se uno vuole vederci il turismo sessuale, il dato è 1 milione di persone che lavorano nel turismo sessuale in Thailandia, quindi è un dato sconvolgente, duro, spigoloso, spinoso, però se poi uno lo legge questo dato, ci trova dentro di tutto, ci trova dentro ad esempio dei russi che sfruttano la prostituzione thailandese, ci trova dentro insomma delle realtà variegate. Quindi la realtà, come sempre, è molto più complessa e articolata di quello che si può riassumere semplicemente in un dato, che migliaia di italiani vanno in Thailandia a fare chissà cosa. Oggi abbiamo capito variegatamente cosa vanno anche a fare gli italiani in Thailandia e non soltanto quello. Grazie Giacomo, alla prossima.